24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Paola Nania. È ancora il debito pubblico greco a preoccupare l'Europa e i mercati del vecchio continente. L'Eurogruppo non ha sbloccato la quinta tranche da 12 miliardi in attesa di verificare il piano di austerity di Atene. Situazione di incertezza che preoccupa le borse, che hanno chiuso in negativo anche se recuperando sul finale. La peggiore piazza affari, con l'S&P MIB che ha perso il 2%, scontando quanto detto dall'agenzia di rating Moody's, che venerdì aveva parlato di rischio downgrade. Parleremo anche della visita di Angelina Jolie a Lampedusa per parlare di immigrazione e della condizione dei rifugiati, e parleremo ancora di un caso di cronaca che unisce l'Italia e la Gran Bretagna. E partiamo proprio dalla Grecia, dopo il nulla di fatto durante la riunione dell'Eurogruppo che ha deciso di vincolare la quinta tranche di aiuti, pari a 12 miliardi, al varo di nuove misure di austerity. Il 3 luglio nuova riunione straordinaria per valutare i progressi fatti dal governo Papandreou e proporre, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Juncker, un piano di aiuti supplementari al paese pari a 120 miliardi di euro. Situazione questa di forte incertezza che si è riflessa sull'andamento delle borse europee. Peggiore piazza, Milano, ha perso il 2%. Si sgonfia in borsa la Popolare di Milano dopo che venerdì la speculazione sull'arrivo di un cavaliere bianco per l'istituto di credito nel mirino di Banca Italia per l'esposizione immobiliare e le sofferenze finanziarie aveva fatto fare al titolo un balzo del 12%. I realizzi, le tensioni per la ricapitalizzazione da 1,2 miliardi in arrivo questa settimana e le smentite da parte della Popolare dell'Emilia-Romagna, principale candidato a un matrimonio con BPM, hanno consigliato agli investitori di vendere le azioni, che hanno perso oltre il 7% in borsa. Effetto aumento di capitale invece per Fondiaria Assai, che ha lasciato sul terreno il 3,6%. In settimana dovrebbe arrivare la luce verde delle autority per la ricapitalizzazione da 450 milioni, che prenderà il via presumibilmente il prossimo lunedì. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati festeggia 60 anni. Ieri, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, una conferenza a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, mentre domenica tutti i riflettori erano puntati su una star arrivata a Lampedusa per parlare di migranti. Il suo impegno come ambasciatrice di buona volontà dell'ONU lo prende sul serio. Dopo aver visitato venerdì in Turchia i profughi siriani sfuggiti alla repressione di Assad, Angelina Jolie è arrivata a Lampedusa. Struccata, vestita semplicemente, si è presentata davanti alla stampa, alla Porta d'Europa, monumento che ricorda i migranti morti in mare, insieme all'alto commissario ONU per i rifugiati, Antonio Guterres. È difficile pensare quante persone hanno rischiato e perso la vita a loro e dei loro bambini guardando questo bellissimo mare, ha detto. Vedo qui famiglie e penso come la vita di queste persone deve essere stata orribile per decidere di andare in mare su quelle carrette con il rischio di morire di fame e di sete o di annegare. Da Taccuino alla mano, prendendo nota di tutto, ha rincontrato i migranti e ha parlato con loro nel centro che ieri accoglieva 190 persone. Si è anche fatta prendere le impronte digitali, così come prevede la procedura riservata agli immigrati che sbarcano sull'isola. Nel mondo serve più tolleranza, ha concluso, prima di riprendere l'aereo per Malta, dove l'attendeva il compagno Brad Pitt. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È salito a 40 il numero delle vittime dell'epidemia di Escherichia coli in Europa. 39 sono in Germania, uno in più rispetto a venerdì. Aumenta anche il numero dei contagiati, sono 3.494, 86 in più rispetto alla settimana scorsa. Un caso di cronaca che unisce Gran Bretagna e Italia, quello di Danilo Restivo, sotto processo per l'omicidio di una donna inglese e sospettato della morte dell'italiana Elisa Claps. Ero attratto da Elisa, ma mi aveva rifiutato. Quel giorno ci incontrammo per parlare, poi lei uscì di chiesa e io mi fermai a pregare. Danilo Restivo si dice innocente e ricostruisce così quel 12 settembre 1993 in cui la sedicenne Elisa Claps scomparve a Potenza. 18 anni dopo, il suo racconto arriva dall'Inghilterra, dove è sotto processo per un altro crimine. Il 39enne si era trasferito infatti a Bournemouth, nel Dorset, proprio per lasciarsi alle spalle le accuse, ma nel 2010 è stato nuovamente arrestato per l'omicidio della sua vicina di casa, Heather Barnett. A collegare i due casi, alcune ciocche di capelli femminili. Ho l'abitudine di tagliarle, ho cominciato al liceo per una scommessa e non ho più smesso, racconta Restivo durante la deposizione, aggiungendo però di non avere mai ucciso nessuno. La sentenza britannica è attesa per fine mese, mentre in Italia il 29 giugno il Tribunale di Salerno valuterà la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti. Dopo la scoperta del cadavere di Elisa nella chiesa della Santissima Trinità l'anno scorso e il ritrovamento del DNA di Restivo sulla maglia della ragazza, è lui l'unico indagato. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rimaniamo in Gran Bretagna, dove il primo ministro David Cameron spinge per far partire il progetto di Big Society. Al suo zelo riformatore si contrappone però la cautela di molti altri membri del partito e degli inglesi. Sentiamo. Il documento sta già circolando tra i ministri e fino a quando David Cameron non avrà la piena approvazione da parte di tutti non lo farà uscire. Il passo è molto importante. Definito la Big Society, si tratta della grande promessa dei conservatori. Consiste nell'istituzione di un personal budget da consegnare alle famiglie, togliendolo di fatto ai municipi che ad oggi controllano i servizi di assistenza e cura. La Big Society si fonda su 4 punti chiave. Gli anziani potranno scegliere come spendere i soldi per le proprie cure e così accadrà per i lungodegenti e per i genitori di ragazzi disabili. I comuni si occuperanno solo di parchi, librerie e traffico. Il test è già in corso a Londra, Liverpool e sembra funzionare. Per farvi un esempio pratico, la famiglia di un ragazzo disabile, invece che mandarlo in un centro comunale, con il budget a disposizione, lo ha fatto partecipare a un laboratorio nel quale ha imparato a coltivare e prendersi cura di un orto. Il risultato è stato sorprendente. Lo stesso è successo per gli anziani. Molti, già destinati a una casa di riposo, hanno potuto investire il loro budget personale per pagare un'infermiera che stesse con loro. Per i laburisti si tratta di una follia perché determina la chiusura di tutti i centri di assistenza per l'infanzia e la famiglia, con la conseguente perdita di lavoro per 60.000 persone. Gli inglesi sono divisi, molti sembrano tentati dal nuovo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di passare al tennis, una curiosità legata proprio alla Gran Bretagna. I britannici pare siano sempre più grassi e il Servizio Sanitario Nazionale è stato costretto a importare dagli Stati Uniti bilance per obesi. Le nuove bilance sono in grado di sostenere la pesa di persone fino a 393 kg. La Gran Bretagna è già il paese più grasso d'Europa, con un adulto su 4 classificato come obeso. E adesso, come dicevamo, il tennis è scattato ieri sull'erba più celebre del mondo, il torneo di Wimbledon. Abbiamo chiesto un pronostico a Silvia Farina, ex azzurra, che a Londra raggiunse i quarti nel 2003. Nadal e Federer si dovrebbero incontrare in un'ipotetica semifinale, quindi non si avrà sicuramente la finale Federer e Nadal. E a mio avviso rimane sempre il più favorito Federer. Però ci sono forse più nel campo maschile che quello femminile, ci sono 4 nomi che sono Federer, appunto Nadal, Djokovic e Murray, che sono a mio avviso loro quelli che andranno in fondo. A livello femminile rimane un'incognita perché hanno ricominciato a rigiocare le Williams, però sono state ferme tanto tempo, quindi non so bene in che condizione arrivino, anche se hanno giocato Eastbourne e hanno fatto comunque vedere buone cose. Ma secondo me ci può essere una Sharapova ritrovata e magari chissà un outsider, anche una Kitova che insomma ha fatto vedere cose buone, anche una Nalì. E ora il calcio. Fabio Capello è il favorito di Massimo Moratti per la panchina dell'Inter. In queste ore la società nero-azzurra starebbe lavorando per tentare di portare a Milano l'allenatore della nazionale inglese. Prego, vuol ballare con me? Grazie. E quello che succede in questo strano valzer degli allenatori che ha avviato l'Inter dopo la partenza di Leonardo. Ognuno ha una buona ragione, ma alla fine la risposta è sempre quella: non posso. Prima Mihajlovic, ieri Villas Lobas, oggi Fabio Capello, sul quale in queste ore si concentra l'attenzione di Moratti. A questo punto del ballo i casi sono due: o è proprio un problema dell'Inter, oppure la cosa si sta estendendo a tutto il calcio italiano. Agli stranieri non piace più, una volta facevano la fila per entrare nel campionato più bello del mondo, ora lo evitano, stadi semivuoti, scandali a getto continuo, casse in rosso e polemiche a pioggia, che hanno trasformato in un mercato residuale, da non prendere in considerazione se un'altra offerta arriva dalla Liga Spagnola o quella inglese o tedesca. Perfino i nostri CT con la valigia, come Fabio Capello, nicchiano. E lo stesso Carletto Ancelotti, pur senza panchina, preferisce stare fermo un giro. Per tornare in Italia, tanto, c'è sempre tempo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.